Ehi, ehi, sono Chuck. Ehi, fatemi entrare. Qui fuori fa un freddo cane. Devo entrare, devo portarvi l'Early Bird Special. Come? L'Early Bird Special! Aloha passerottine e passerottine care, questo è l'Early Bird Special, è la vostra colazione rock and roll servita tutte le mattine, dalle 6 alle 7 dalle frequenze di Rock FM. Con voi c'è sempre, come sempre, Chuck Bird, che se la spassa un mondo con la sua musica, il suo caffè bollente rigorosamente nero e le sue baggianate sulla vita dissoluta delle rock and roll star, come quella volta che Francis Rossi degli Status Quo servì un tè piuttosto forte al suo collega Rick Parfitt. Ve la racconterò nei dettagli dopo che ci saremo ascoltati Lovin' Spoonful, Summer in the City. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, bit of pity. Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Loving Spoonful, fuori tempo massimo con la loro Estate in città. Ma era degli Status Quo che vi volevo parlare questa mattina. Gli Status Quo, una delle band che non si è fatta mancare mai nulla, realmente fedele al sex, drugs and rock and roll lifestyle. Francis Rossi, il chitarrista, una volta dichiarò che un intero album, Blue for You del 1976, fu registrato sotto l'influenza dello speed. Attorno a quel tempo Rossi aveva un giardiniere che gli procurava del solfato, ma siccome non aveva il coraggio di tirare su quella roba dal naso, la scioglieva nel tè, un bel cucchiaione di solfato in ogni tazza di tè. Rick Parfitt, l'altro chitarrista degli Status Quo, una volta andò a trovare a casa il suo collega Francis. Era mattina e Rick, non essendo andato a dormire, era logicamente stanchino. Rossi, senza dirgli nulla, gli servì una tazza di tè, diciamo, corretto. Nel giro di un minuto, boom, la droga cominciò a fare effetto. Le orecchie di Rick divennero rosse, tentò di vomitare ma non ci riuscì e per le restanti 48 ore fu più fuori di uno zerbino. Tornato a casa prese in mano la chitarra e cominciò a suonare un riff, non riuscendo più a smettere. Andò avanti tutta la notte a suonare quello che sarebbe poi diventata Mystery Song, uno dei pezzi più belli di Blue for You. Attenzione cosa mettete nel vostro tè o nel caffè. Se il vostro giardiniere è nei paraggi, vi consiglio di stare molto attenti. Ma eccoli gli Status Quo all'Early Bird Special. the best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Peter Criss e i suoi Kiss con Beth, la loro canzone più importante, sicuramente quella che ha venduto più copie. Potete entrare in contatto con il vecchio Chuck Bird se avete una tastiera, se avete un computer, se questo computer è collegato ad internet. Potete mandarmi una mail digitando bird@radiorockfm.com. Per voi e solo per voi questa mattina David Bowie, Rebel Rebel. We'll be right back. il Duca Bianco, David Bowie, Rebel Rebel, e rimaniamo in Inghilterra con un'altra band di scavezzacollo mica da ridere. Si chiamavano Faces e questa è Rock Me. We'll be right back. Foreigner ci hanno portato alla fine di questa prima parte dell'Early Beer Special. Feels like the first time, come se fosse la prima volta. E questa è la prima tazza di caffè del mattino, ci crederete? Eh? È per questo che sono un po' così, un po' titubante. Meno male che c'è la Cherry che come al solito mi porta la mia grandissima... È un formato veramente magnum, la mia grandissima tazza di caffè nero bollente. Grazie Cherry. Ma non vuoi dire nulla ai nostri ascoltatori? Nemmeno questa mattina? Accidenti. Ragazzi, prima o poi la convincerò, vi farò salutare. Cherie, ti ringrazio moltissimo. Un bacione.